Quest'anno la Terra Trema ha coltivato un film, God Save the Green, è il documentario che abbiamo deciso di sostenere, per le rivoluzioni negli orti, per i contadini resistenti che difendono terra e territori. Tra percorsi fotografici e installazioni idroponiche, gli autori, accompagnati da scrittori e giardinieri in movimento, vi invitano alla prima presentazione pubblica in attesa dell'uscita ufficiale. Cena contadina nella cucina pop del Leo e a seguire Easy DJ Set. Venerdì 26 ottobre, dalle 19, Leoncavallo, laterratrema.org.